sola me ne vo per la città, e passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni volto guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu, ma dove sei perduto amore? Ti cercherò, ti sognerò, ti troverò. Io cerco invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, sognando te, cercando te, che più non ho. Guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu, ma dove sei perduto amore? Ti sognerò, ti cercherò, ti troverò. Io cerco invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa e che non vede il mio dolore, sognando te, cercando te, pensando a te, perduto amore.